Boffolo, Boffolo, Antonio Boffolo su Cookie 21, cambia. Ma chi chiama il Boffolo? Io ascolto, cambia. Buonasera, ciao Pierpaolo. Positiva di Caporoccio, buonasera, ben ascoltato, cambia. E che fa? Positivo, brutta giornata, vero che fa? Ma fai la peomi? E come mai? Come mai? Poco trabacco? No, di quello c'era anche la fede, ma brutta giornata, disavventure. Cos'è che fa? Ah, parlo disavventure. Ah, ho capito, purtroppo. Quelle vengono e vanno. La gara, non ho sentito la commissione, no? Presto mi hai. Che fa, dimmi, cos'è? Hai non sentito? Non hai sentito nessuno. Ma poc'anzi c'era Giuseppe, poi c'era Gianni Capridù e Gianni Doppio Ru, che stavano cenando, sono andati a cenare, poi rientravo più tardi. Positivo il capo a Rogero, attento Giuseppe Tornado, si ascolti la radio vera, cambia. Attento Giuseppe, molla il piatto e vieni via. Quando c'è la forchetta in mezzo, lo sai per me che il mangiare viene prima del baracchino. Attenzione, binario 21, si ascoltate qua, Gabo. Morte chiesto, cambia. Buonasera, signor Vela, Gabba. Ho sentito che c'è anche il leoncino. Avanti, Vela, poi fai girare, Gabba. Ehi, sono rientrato. Gabba! Anche io, leoncino, sono rientrato anch'io, dai. Manca solo il buon Giuseppe, deve essere che sta facendo il pieno ancora. La forchetta non la molla il buon Giuseppe, cazzo, dice a me preferisco riempire la pancia e poi parlare al baracchino. Quello fa bene. Cava. Attenzione Giuseppe, lascia stare la forchetta, capo. Intende no. Avanti Pierpaolo, buonasera. Ehi, ha detto buonasera, Frida. Paga quello di Stato, perché mia moglie mi stava parlando e stavo ascoltando due cose in una volta. Ho sentito che ha avuto delle disavventure stasera, cosa è successo per me? Paga, stavattina. Cosa è successo? Un po' di casino, perché di disavventure, io ci volevo. Lavoro. Ah? Lavoro. No, sul lavoro no. Vabbè. Bisogna sopportare. È successo il patatraco, sono andato di là a prendere la persona e non ripartiva più la macchina. Ah. La tua. E allora? E cosa c'è aveva? Il cuore. Ma te l'hai fatto eliminare per parte. Non devo sempre mandare a toglierlo, e non lo faccio mai. Perché tu mi avevi detto la devo portare a fare quel lavoro. Ma pensavo l'avessi già fatto. No, non l'ho fatto ancora. quindi come è fatto? E quindi come ho fatto? Ho staccato la batteria, ho lasciato mezz'ora, ho scelto la batteria, si è resettato il tutto e poi è partita. Solo chi ci mancava? Ma nel frattempo tua moglie era stata dentro. Nel frattempo era in macchina e poi oggi ho sentito che è stato bene. Ha detto, oh, oggi è stato un casino dietro l'altro, come è fatta? Moralità, quando si mette il diavolo? Bene, va bene. Oggi era in incatenamento totale. Vabbè, interessante aver risolto, invece voi mi si è accesa la spia, scendendo ieri sera mi si è accesa, poi mi si è rispenta, poi c'è nella produttore stamattina mi si è accesa di nuovo, quella che sembra la macchina che è impacchettata, che c'ha il fiocco, sulla cappotta le risulta il fiocco, è come se avesse un nastro, sono andato a guardare cosa era, mi sono fermato ed era praticamente guasto la macchina e c'era scritto di spegnerlo e di riaccenderlo, se si spegneva vuol dire che non era niente, che già si era risolto il problema, se non si spegneva la spia di andare subito al meccanico e mi si è spenta la spia, si è spenta, sono partito, dopo un paio di chilometri si è riaccesa e allora sono sceso direttamente alla Opel prima di andare a lavorare, l'ho portata e me l'ha controllata e c'era scritto praticamente miscela secca, asciutta. E mi ha detto di farlo andare un po' a benzina perché la stavo facendo andare troppo a gas. Dice, non mi dice un po', farò andare un po' a benzina, se poi ci sono problemi siamo qua. E invece grazie a Dio, dopo che l'ho fatto andare a benzina non l'ho più fatto. Sono troppo secchi le mie tue. E allora, il gas è asciutto, c'è poco da fare. Ogni tanto bisogna dare una pompata di benzina. E vabbè, l'ho fatto fare 20 km dalla produttore da Sassari a benzina, poi sono risceso tranquillo, la macchina è andata benissimo. No, lo sai cos'è? Questo qui è secco perché già il gas è ghiacciato, e ghiaccia, più in questo periodo ghiaccia ancora e più scende di temperatura, è per quello che è secco. Allora, vabbè, già è un gas secco, la miscela che mettono, buttare propano, è un gas asciutto là, poi si raffredda anche di più come dici tu, invece d'estate c'è anche un bel gonfio, rimane, si gonfia proprio serbatoio. No, guarda, te lo dico perché lo conosciamo, perché abbiamo fatto anche le prove. In questo periodo anche la fiammella, la fiamma della cucina, se tu lo osservi dall'estate adesso, cambia totalmente. Sì, no, non ci ho mai fatto caso. E cosa risulta più alta? Ma mentre ci lo può fare anche adesso, se tu per esempio dovessi mettere, che ne so, una bacinella d'acqua calda vicino, o addirittura metti il primo pezzo della bacinella a bagno e ho acqua calda, tu vedi che la fiamma rimane bella dritta e ardilla e più, molto più forte. Di questo periodo invece la fiamma rimane più spenta, più meno accentuata di come deve essere, appunto perché ha una temperatura molto diversa dentro la bomba. Più moscia. Bravo, più moscia, esattamente. Tu osserva e vedrai che è come ti sto dicendo io. Se tu prendi e metti già una bacinella, qua calda sotto, la vedi come rimane bella, forte, dritta, senti anche il fornello che moiteggia. Paga, non l'avevo mai notato, cioè non ci ho mai fatto caso, va. Però già me l'aveva spiegato anche Murgia, mi ha detto che d'estate ha più pressione il gas, c'ha più, va più in pressione, invece d'inverno rimane più, diciamo, più ghiacciato, più cose, quindi lo fa che si asciuga un po'. Ma è noto che il gas è più temperatura alta, c'ha, è più forte, capito? Prende più pressione. le lupi si facciano i titti, là. Mettono i fogli di catrame nel titti. Se tu hai visto ogni tanto vanno a bomba e gli puntano la fiamma sotto, una parte di sotto la riscaldano. Paga. Via. Leoncino. Già, sono qua. Sono qua. E non mi, aprimi due. Avanti, Lucrezia. Sono qua, sono Leoncino, avanti, chi è? Un edu è un osericchio, cazzo, si mescia a Lucchiarello. Sera, Sono io, Leoncino, non mi prendete in giro. Dove porti sempre il livello di Cestino? Il Gambino. Ebbene, Lucrezia. E me, Radio Leoncino, senti qua, vabbè Giannini. Attenzione Lucrezia, se mi ascolti Gabu. Qua ti ascolto. Attenzione Lucrezia. Aspetta, che ho sbagliato. Scusami. Attenzione Lucrezia, Lucrezia. Beh, signori, voi avete fatto il pieno, adesso ho chiamato a me a andare a fare il pieno. Ciao, ci sentiamo dopo. Magna va, Gumi. Magna va. Ciao. Buona carica per il padre. Vado, ma fa tono. K. Ecco. A voi. Di casa tua a torre a tetti al lupo lavorando. Lui è sempre lì. Non so, io non me lo ricordo più. Le prendevo quando c'era lui, ma non me lo ricordo perché ero piccolo. Non mettiamo a contento la verità. Me le fa belle croccanti, colorigano come piacciono a me. No, non è mica contenta la luce, la verità, non posso dire il contrario. Ma comunque da 1,30, 1,50, avrei targato di 1,1, no, signore? Sono carucce? Ma sono carucce. 1,50 comincia già a essere un bel po' di soldi, eh? 3 euro, 3.000 lire sono. Infatti. E vabbè, comunque. Ma un po' non ci guarda, ma poi non... Ripeto, noi facciamo... E più non stare là c'è, meglio è. Ma ultimamente stava facendo praticamente vuote. E poi ti va proprio... Ci aveva fatto apposta, non aveva detto come quella dell'angolo sempre. Ma va a cagare, va. Ci arrivava proprio la penultima e l'ultima, proprio all'angolo, con la teglia. vabbè, quello è come capiti, ma a me invece mi tratta bene, la verità. Vabbè, io ci vado anche quasi ogni giorno. Cazzo, ogni giorno pizza mangi già, ogni giorno. Mi piace un bel la pizza. Io preferisco mangiarmi due pizze e non mangiare a cena, piuttosto che mangiare la cena e non mangiare le pizze. Io, a me non mi stufano mai le pizze, non mi stuferanno mai. Le al taglio, perché le altre non ci vado matto, ma quelle al taglio mi piacciono un bel. Avanti Antu, riprendi tu e fai girare la ruota, vai, gala. 4 me le mangio. Anche io sono andato 5 anche me le mangio, però non le trovo più come avevo prima già, devo essere sincero. Più forte di me, quello. Allora, vicino a casa di mia cognata, lì con la pizzeria, non so dove, no? Lì, prima le faceva lui, il padrone proprio. Ma facciamo una fatta buona, ha cambiato mano, io l'ho presa quando qualche mese fa, cazzo non è più azzurra già, c'è un ragazzo che l'hai fa, non è più azzurra. A volte anche la mano vuol dire. No, non ci stavo dimenticando nessuno, c'è Antonio, c'è anche Leoncino. Rilanciamo Leoncino, poi fa girare per Antonio. Avanti Leoncino. Ciao. Comunque buonasera a tutti i componenti della ruota, dai. Ciao Antonio Popolo. Tutto bene? Bolino Bombolino, lo senti al tuo Leoncino? Sta a caricare anche lui, dai. Sicuramente. Avrebbe avvisato, boh. Vabbè, comunque... Tu dove le prendi le pizze, Drago? Ma le prendo io le pizze? E le pizze al taglio, dove le compri? Ma al taglio non le prendo, io le prendo quelle con Margherita, là. Me le metti di fronte a Gianni, o... Capino, Cazzapatti, con la pizzeria nuova. Sono veramente buoni lì, Poi ci sono quei ragazzi. Quello che capi la farina e poi c'è l'altro. Ah, tu Leonci la mattina, Sento. Salutare. Salutare? Quando? Vieni a vedere dietro di noi. Boh, non ci ho fatto caso. No. Allora, se tu stamattina sei salito da via Torino e hai girato in via Zaffarino, giusto? Sono salito fino a su per scendere lì via Corso, cazzo si chiama così. Ho superato via Roma e poi sono sceso giù. E eri tu perché ti ho riconosciuto l'antenna. Noi, non te lo ricordi, quel motocarro verde che stava salendo, ti ho anche salutato. Invece non ti ho fatto caso, tu. Invece ero sotto pensiero. E guidi con le briotti. Sì, guido con le briotti. No, ma lui non c'è... Invece che briotti. Oh. cos'è che ha detto? Guida con i briotti. Voleva dire con i briotti, perché ci fanno dei cavalli. Luca. Felizia. Qui che c'è anche Barra Agricola. Barra Agricola, dove sei? Dove sei per la Tamona? Con chi sei? Con chi sei? Da dove sono? Da solo. Sono da dove stavo lavorando? Ah, credo che con qualche ragazza ti stai mostrando. E il trattore già va poco bene, dove la metti? Sul parafango è troppo... c'ha troppe pieghe, nel cofano c'è la marmitta, dopo c'è il funghetto, e dove lo puoi mettere? Cavolo, tu che sei pastore non sai come mettere, la pecorina! Che ti portano male, hai capito? Hai capito già? Che è pastore, non lo sa come si mette. Cosa? Ha detto che non so dove metterla la donna entrando in trattore. Io ho detto, pensavo fossi con la signora, se non so dove metterla. E come fai in trattore? E te c'è il pastore, sì. No. A buone 31 file, a buone, non deve dare buone. A ma con un pigliato retto. Ma che ovile, che ovile. È la pecorina. E poi anche quella. Bene, ma non c'è posto per toccarla. Così, Anto, oh, guarda che... Eia! Pagappa. E tu ti avrai la donna, parla che da poi ti arrangi. Sì. Fa tutto quanto lei, sta tranquillo, Barra Agricola, Salvatore. Comunque, ciao, Ciao, ciao, buon Natale, Grazie, grazie. Noi già ce ne siamo fatti gli auguri, vero Barrari? Tutto lei, no? Tu stai fermo, stai tranquillo che il sistema lei. Auguri Salvatore, che aspetta, me ne sono dimenticato. Pare che l'ho trovato a mezzanotte a Salvatore a fare gli auguri. Capo, ma me ne sono veramente dimenticato. Noi ci siamo sentiti per gli auguri, che scemo che sono. Si sta veramente rimambendo. Ma sono rincoglionito, Salvatore, ci siamo sentiti noi. Ma già mi ha mandato un messaggio, prima tuo padre, dopo un altro, ma ho detto, ma che cavolo è? E chi è? La Massimiliano. Per Roma, chiaro. È stata una vita. Mi ce li ho fatti a tutti, non mi sono dimenticato di nessuno. A Barra Agricola li ho fatti in verticale. Io mi sono dimenticato, cioè, mi ha mandato gli auguri una persona, ma ero la sera, ero talmente cotto che manco il cellulare mi ha visto. Oh. Dipende dove decidiamo di andare. già sei, già vengo a farti gli auguri, ok? Sì, già, se ti capita, mia solita è stato inizio dalle 7 di sera fino a finire, hai capito? Non c'è stato il cazzo, te lo so, no. Già. Mangio cracker o mandarino, roba che non fa ingrassare, dai. Come? Sì, tu. Sì, anche io già cracker, se ne mangio tanti, sì. Infatti mi è rimasto un pacchettino solo. Li ho presi, sai dove già, le rospine sono buone, Ma che posso dire che sono buone davvero? Sì, anche cosa mangio? Mangio isi. Ho preso un pavesi l'ultima volta, però di solito prendo quelle di rospine, sono ben buone già lo so. Oppure mi mangio un mandarino, qualcosa così. Sto sino un bettale, specialmente il sabato, quando so che l'indomani non devo andare a lavorare e cose. E mi sbizzarrisco, sto con le amiche mie e cose, o c'è qualche commessa così, che racconta le sue storie e cose. E mi mangio qualche cosa, ed era contento, ma curego. L'altra volta solo aspetta. Sono andato su Facebook perché purtroppo non passava di andare al poker e ti ho visto le due passate, può essere, le di notte, anche di più forse. Ieri sì, le di notte mi sono alzato, è vero. Ho fatto un'oretta al computer e poi me ne sono ritrovato a letto. E te l'ho detto, sono così, mi sta venendo questa fame strana di notte. Devo arrivare a fumare adesso. No. Sarà. Non hai visto i filmati di Manuela cantando? Non ho capito. I filmati di mia figlia cantando La notte bianca, li hai visti? No, dei video hai messo, aspetta. No. Aspetta, allora. Gianni. Aspetta, Gianni, vediamo un po'. Allora. Vedi video Gianni quello? No, c'è Emanuele a me. Fido a Firenze, quello lì è? No, non è quello lì. Tu fai, entra nel mio profilo. E poi guarda, Emanuele a me, già c'è. C'è il video della notte bianca che Emanuele ha cantato sul palco. Aspetta, allora, sì, ma allora stavo scrivendo Gianni, il tuo profilo, aspetta, ho già passato già, no, se di sì, no. Forse precedenti, aspetta, forse su precedenti, aspetta. Perché a volte li tolgono loro, eh? Ah, io l'avevo visto quel filmato. Hai visto? Sì, un po' di tempo fa. E quando c'era la notte bianca, non è nemmeno 100 anni fa, no? Saranno 2 o 3 settimane fa. Ma già l'ho visto, già. E non 3 settimane. Già, niente. Non ve lo fa vedere, vabbè, perché loro li tolgono, capito? In automatico li tolgono, io me ne sono accorto, ma c'è tanti filmati, vado a farli vedere e non vi so più. Se ci passa un po' di tempo ne è gavane. E guarda quello della CDC e dei Biasi. Io ne ho messo un bel, tu ne hai preso uno solo. Se lo ricondividi già non lo posso vedere perché non c'è. Pecchetta. Vabbè. Riprendi Barra Agricola e tu col tuo frattore a che punto sei? Io sto entrando alla casa. Tra una casa lì siete tinti? Il signore. Tra una casa lì sì. Pungere devi adesso. Se ne ho pungere i galli. Mica c'è quel toro. Che vuole essere munto. Aio! Se mi dai 100 euro so che col trattore abbia dato le segne. Ci avevo anche lampeggiate questo qua, infatti ho detto questo è lampeggiante arancione. Come va? Lampeggiante arancione. Ma non ce l'aveva, io ce l'ho sulla destra, questo non ce l'aveva, mezzo lo ho sulla destra. Al centro capota, già. Oh no, è un trattore uguale al mio, è dello stesso, un anno prima del mio, ed è un 90 turbo. Lo conosci? Ehi, è un paesano di Osilo. Appaga, già va bene, dai. E questo impianto nella macchina l'hai fatto, sì o no? Ho già. Ehi. Cos'è questo tipo, come si dice? Tutto in bianco, dove la fate? C'è un video. Tutto in bianco? Tutto bianco qui. Sono tua moglie questo video. Anche mia moglie. Ma a Firenze. Ma c'è Firenze, io. È Cupido quello lì, quello che ti infila la cosa, la spada, Bogallonfi. Bogallonfi, perché? Perché si fa le fotografie abbracciate con le donne, quando sono abbracciate, c'ha visto quella lancia che c'ha in mano, me la mette in mezzo alle tette. Le abbracciano, le donne si mettono in posa per fare la fotografia e lui boom li mette a fare, si mette a ridere. Una volta con la tua figlia, la sua è cambiata, minchia, allucinante, ti è cambiata, madonna. E adesso è cambiata che io lì eravamo, siamo andati quando a Firenze, un anno e mezzo fa mi pare. Adesso è ancora più grande, è ancora molto diverso. KK. Quelli sono i viaggetti tu che ci regalava il computer. Fuma tua figlia, no? Cosa? Fuma. Ah no, negativo. Ma perché c'è una foto, c'è una sigaretta sul tavolo. Era proprio bella, sì. Però bella figlia già. Solo vabbè. KK. E anche Marcolino è bello, solo che ha gli occhiali, magari sembra, ma è carino anche lui. Adesso quando cresce, sta crescendo, ce la sta sempre allungando, dimagrendo. No, Scendo. Ah, non mi capisco. Poi un altro io non lo fa, praticamente accende tutto, ma non mi dà il segnale. Sicuramente si è spaccata l'antenna, c'è l'antenna integrata, si è spaccata, non dà segnale. Allora, il mio, Luca, abbiamo cambiato roba di una quindicina di telefoni e quello è rimasto sempre nuovo. C'aveva la cover celeste, ma l'avevo cambiata, era un bel bello. Poi cosa è successo? In ditta mi hanno fornito il telefono a me, no? Dopo tanti anni. Mi hanno fornito il telefono, mi è caduto in terra e si è rotto. Allora cosa ho fatto? Ho messo a disposizione quello lì. Ah, tra l'altro si è rotto, vabbè, faccio finta di nulla, metto la scheda della ditta e lo usiamo in ditta. Cioè sempre la stessa batteria, la stessa cosa, caricavo sempre la stessa batteria, non durava tantissimo, durava 2 giorni, ma sempre efficiente, capito? Allora sono andato in ferie, l'ha preso il mio collega, lega giù di terra, si è facciato e tira lampado. Adesso chi gli ha dato l'ordine di buttarlo? Ci ha buttato via. Vabbè. Quando si è notato il display, con la grazia da ciambando. Interessante che la scheda base non sia danneggiata. Perché se è danneggiata la scheda madre, si è fitto. Si può rompere la suoneria, si può rompere l'auricolare, si può rompere il display, si può rompere tutto quello che vuoi. Anche la carcassa del telefono, non c'è problema. Ma se parte la scheda madre, quindi li puoi sostituire i pezzi, già capito, sono si staccano, i contatti, si possono avere i contatti, si è aggiungata la lampadura, sono tanti. Contatti per la batteria? E i contatti del Nokia. Pagato. Emanuela c'era un Samsung, quello che dice rovinato è l'attacco per l'alimentatore, era tipo, cosa ti posso dire, una presa USB, ce l'hai presente, però piccolina. Sì, come il mio, ma poi gliela me lo stai dicendo, e poi quando sta a finire? E l'ha portato a aggiustare, dice che non si può aggiustare, allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo comprato un caricabatteria a parte che ricarica con la batteria, fatta apposta per caricare la batteria di quel telefono. Ci mette la batteria a caricare e poi la mette nel telefonino. Vabbè, lo può utilizzare ugualmente, so che lo può utilizzare quando farà lo messaggio. Vabbè, bisogna accontentarsi, per non buttarlo via, meglio di buttarlo via già. Stacca la batteria così e la mette con questo supporto. È tipo quelli che si mettono anche i cellulari e cose del genere, si inseriscono di quelli da tavola. Si inserisce la batteria, cioè 2 alloggiamenti, potevi caricare 2 batterie insieme, capito? Sì. Oggi va vitto. Vediamo un po' se Antonio è rientrato. Antonio? Non sta farlo andare. Non vuole far andare. Vabbè, no. Ma che cosa non va Antonio? Non entra in internet? Se non si voleva accendere, adesso si accende, come se va a caricare via. Ma c'è la batteria a terra. Infatti se lo scarico. No, non lo dico lo stesso, tu c'ho computer non accendere, ma la batteria accende, sì, la batteria è carica, ma sicuro sì. Cazzo, non so c'è la carica. Portalo, ma lo prende. E tu viene te lo il bar. Ma c'è sicuro che c'è batteria, non vedo se è acceso rimane. Prendo, attacco la batteria, le attacco la rotazione, pum, accende. Lo faccio partire, tutto quanto. Poi però gli metto la batteria. Pensa, ma a caricare, c'è la batteria a scarica. Lu, comunque questi computer portatili sono un po' così. Allora io un giorno se mettevo la batteria non funzionava anche se era carica. Era carica a morte ma non funzionava, era in corto. Non mi sono accorto da quello perché l'ha sciolta un po'. Non si capisce come, non si capisce perché, però si è sciolta nell'angolino. Ho tolto la batteria, l'ho lasciato un po' di giorni andando col cavetto. Poi ho rimesso la batteria e funzionava bene. Ecco qua. Forse hai ragione, no? Era un po' di giorni che si è cambiato la cosa lui. C'è la magliettina bianca già. C'è scritto come ti ho detto io, aspetta se non mi ricordo più, cacchio. Allora aspetta. Aspetta. Ecco. Se poi in comune, Italy Sassari. Ma non nascimento è lì? Chiara, vabbè, lei si chiama con quel primo nome che c'è, non è niente, sono un'amica sua. Comunque quella che c'è in foto, quella lì è mia sorella. No, non si vede bene, tu. Non è che tu do nascimento. Sì, avrà scritto Uzi, l'avrà scritto. Comunque quella che c'è nella prima foto, quando tu apri, quella lì è mia sorella. Ma qua ce n'è una, che c'è la maglia bianca, sembra bionda, un'omigonna, una donna accorta, lei. Sì. È molto carina, E lei? Ragazzo. A te non te le apre le foto, no? Ma è come se io ho la privacy, lì va a aprire e non le apre, perché c'è la privacy. Già, farebbe sì. Non mi dice niente. No. Vediamo un po'. Vediamo un po' se è lì, aspetta. Qui non ce n'è. C'ha 693 amici, così. Però poi non dice niente, privacy, nulla, non. Strano. Anno di laurea di provata, sì. Senti, ci tocco a chimica, tecnologia e farmaceutica. Provata. Non so che cosa sia, frutto, no. La verità non gliel'ho mai chiesto. Facendo io. Questo qua. Chimica e tecnologie farmaceutiche, anno di laurea, diploma 2009. Potrebbe lavorare in un'industria chimica dove fanno medicina. Potrebbe lavorare in una fabbrica di medicinali. È così. Tradotto, chimica farmaceutica, che cos'è? La fabbrica è medicinale. Ma dove sei diplomata? La Sassari, allora, dove ero io anche? Sono stato un anno. Vedi tu? A Solari. Ho capito, vera. Sono scuole professionali quelle lì, ma sono corsi, da. Certo. Io ero lì per un anno, sono stato un anno, poi non sono andato più. Perché non ti piaceva? C'era bisogno. Ma ti piaceva? Diciamo di sì, dai. Non fa farmi contento. Assolutamente. Che ramo avevi scelto tu, Anto? Biologia. Biologo, Antonio, te ne immagini? Avresti parlato di batteri, capiti? Già, mi piace la verità. Ho corsi di biologia, ne ho fatto parecchi perché con l'HACCP, che facciamo noi, corsi per lavorare in mezzo al negozio alimentare, devi per forza fare i corsi HACCP. Forza devi fare. Sai chi ci rifà? Le fa. Chi ci interroga dopo che finiamo di finire di spiegare? I biologi. Vengono da noi, dicono quanti batteri si possono moltiplicare da un parto e cosa, E tu li devi dire quello che è. Ma gamba. Ma diciamo che a me piaceva anche. Però purtroppo poi sono dovuto andare e ho mollato. Gamba gamba Luca. E vabbè. Casino. Io ho solo la licenza media serale. Troppo. Casino. Non c'erano bindini per studiare. Hai la terza media serale di non con la nuda, vabbè. Diciamo che se capita magari, non so la domanda, che ti richiamo la licenza media, sono coperto, diciamo. C'è gente che fa la domanda, no, la licenza media, negli entimi, e un anno, quando si apre la licenza media. Ma persone grandi, chi non entra all'ospedale, chi non entra, non so, sai, in un ma come si chiama, in un se lo tengo gli anziani lì, anche lì ti richiamo la licenza media. Un casino, eh. Ormai non ce l'ha più Zullo. Perché non ho studiato, non sono andato a scuola. So, in via di ferie. Ah, no, lo provi di là, era diverso. Tu che scuola c'è, perché? Io ho la terza media, ho fatto la prima superiore e poi mi sono ritirato. Ora c'è la terza media anche tu. No. Io invece? Io ero professionale. Ma riparato, sì. Con la qualifica delle professionali. Ah, lo hai già detto, è vero, io. Ho fatto 3 anni invece che 5 perché ho trovato lavoro e ho mollato. Ecco. Ma la qualifica te la danno, Beh, sei qui te la danno, sì. Beh. E beh, non si vede nessuno. Ma non vede più nessuno. Oh, qua. Qua. Boh, perché? Così che voglio sentire un po' di gente. Parla agricola! Parla dove Luis? Alla mungia da stellina. Non te ne toccare a te. Gimungi. Leoncino se n'è andato, Pierpaolo non è rientrato. Facciamo 2 più 2. Siamo rimasti noi 3, no? Sono un po' chiami occhi. Cosa? Dico, tu sono un po' chiami occhi. Che è questo qua? Non so cos'hai. Che io abbia come presto adesso. E quindi mi alzo durante la notte pure. E mia moglie ha detto, cosa c'è? Sonnambuli ci sono in casa. Ha sentito il rumore stanotte. Dice, ma cosa cavolo c'era? Cosa stavi combinando? E io no, sono un attimino al computer, ma tu sei matto, dice, cavolchiate di notte per andare al computer. No, ho detto, perché devo guardare una cosa, e chissà quante notti mi sono alzato e non se ne è accorta. Ma tipo che si è alzato più o meno? Sono le 3. Che? E poi non ho mai ti alzato anche io alle 7. Ehi, alle 7:05. Sì, allora, io sono, allora, Gianni. Vabbè, ha detto la ragione, lì c'è gente che dorme, che ha bisogno di riposare, però devi stare tu un po' di più, nel senso, se te metti subito, aspetta, se te metti adesso, è normale poi ti alzi presto la notte, io faccio tardi, anche quando lavoravo, quindi già facevo mezzanotte, anche l'una, però tranquillo, mi alzavo a quell'ora, andavo a lavorare dopo. Lo so, anch'io prima ero così, mi coricavo all'una, mezzanotte e mezza. L'estate sì, ma nemmeno non mi trovo. Mamma mia, è uggioso. Prima l'estate mi lasciavi fino alle 3 di mattina, io tranquillo. L'estate io è difficile che sia a casa. Come fa? Che riso è? che è staccato l'estate? Nessuno. Io vabbè, io sì, ho fatto gli anni, io fa fuori applicare di là, casino. È un casino. Allora questa è stata la rottita già, come sei andato? Ma dove? Allora, non si tratta Santa Maria? Ehi, vabbè, lì adesso la fanno piazza Piazza Maria. No, non ci sono andato. C'erano qualcuno a farmi compagnia, a me mi piacciono queste cose, ma anche se il vino è un po' così. Ma mi piacciono per stare in compagnia, a me le cose sassarese, le tradizioni sassarese mi piacciono tutte, perché c'era nel cuore la tradizione di Sassari. Mi piacciono le canzoni sassarese, mi piacciono i candelieri, mi piace tutto quanto di Sassari. Però se non ho compagnia, mamma mia, gli amici mi sono tutti giriati, no, non ci vado, lì va a fare la fila per mangiare, ma non è quello, è perché è una tradizione. Ma chi che non piace? Vabbè, avanti a tu. Tu la fidanzata su internet, su Facebook. La me lasciate un guido di Savoia, per carità, sono andato a pisciare e mi ha lasciato un guido se non riconoscivo in mano. Forse le sono avvicinati altri, ancora più tatuati di isso. Sono ormai che i buchi mari. Prego, prego. Avanti, buon Giuseppe. Buonasera. Oh, e che sei, chi sei, che sei stasera? Ciao Giuseppe, buonasera, ben sentito. Ciao, buonasera e ben sentito anche a te. Già la bagaglia di un sfumante di uno spin, prima di capo di faccio. Sta ora da fottito, sta fottito, rimane da fottito buruccio. E non mi piace mangiando già, boh, proprio sapore, buono. Non sono mangiato, ho detto prima. Non sono voluto un bicchiere, vuol dire, non è che un bicchiere era, a pranzo, sono mangiato un bel piatto di pasta e lenticchie, e qui stanotte, pesa poco, più o meno mezzo bicchiere abbondante, dai, quel bicchiere era Nutella. Sì, anche a me è massacrato umanamente, nel senso che mi viene mal di testa, mi fa il cerchietto. Se ne bevo un goccio, mi butti sempre, infatti l'ho rifiutato questa, non ne ho voluto, e mi ha detto guarda ti porto un fermentino del gusto di quello buono, gasato, che è molto amabile, infatti era un bel buono, quello lì, me l'ha fatto gustare un goccio, l'ho gustato, ma un goccio proprio, me ne era buone di altro, tu già rimane il bicchiere, non l'ho più toccato. E butto mal di testa, forse magari sono le cose che ci mettono in mezzo. Avanti Giuseppe. Eiaia, e io per non sbagliare non ne avevo bevuto niente, né vino né spumante. Un dito, ma un dito di lungo, un dito rovesciato, bucato, proprio per gustare. Ma che realtà è Giuseppe? Nulla? No, no, negativo, niente, manco spumante, niente, nulla. Capodanno, a meno per Capodanno, un bicchiuzzo, sì. Ma non lo so, adesso vediamo. C'è da fare strada, meglio niente. Ah, ecco, vatti già. Pagava. E perché Giuseppe, intenzione di andare fuori? No, ti possono fermare anche come stai uscendo dal portone, quando ti siedi in macchina. Fatto la privata. Via, vabbè. KK, interessante stare bene e divertirsi, perché Capodanno proprio si butta tutti gli inviti e di nuovo a travagliare. Poi buonasera Antonio e ben sentito. Sentito che a me. Questo Capodanno facciamo i fuochi artificiali, attenzione alle antenne. Papà, questo Capodanno ne cupiamo un bel. tappa di positivo e di rosmetro. L'antenna che c'è nel palazzo di fronte mi sa già qualcosa. Chi c'è di fronte a te? Il palazzo. La notte di Natale usciva anche il fuoco. Lo dice che adesso la televisione la vede meglio. La vendetta c'è. No, ne ho preso altri due pacchi e vediamo un pochino cosa riusciamo a fare. Qualche piccione già ne lo butto giù. Kappa. Attenti alle antenne. Kappa, attenzione a non passare qua. No. Guarda, come ho fatto l'anno scorso, da casa, e già va bene. Kappa. Ma la cartucciera ce l'hai? Oh, non ne ho bisogno io di cartucciera per lei. Per me. Ma di si di cinturone. Non permettere cartucce, no, proprio di libertarsi. Cavolo, quella lì costa, lo sai che costa un pacco di soldi una cartucciera? Non so. Lì bisogna, provo a chiedere se ne trovo qualcuna usata, non ti prometto niente, però chiedo. È usata mi serve, per mettere il petardo dentro. Dai. Non posso vedere la cartucciera, tu c'è altro fuori se si inculano a te. Buonasera, mio amico. Buonasera. Che si dice di giù? Si scoppietta ogni tanto, sì. Ma che scoppiettando? Cappa. E anche qui mi scoppiettando da sopra e da sotto. Da sopra e da sotto? Sì, da sopra, da sotto, da dove esce? Da ogni anno, quindi. Guarda, quest'anno le vuvuzela devono suonare, che è una meraviglia. Gianni è in direzione d'arrivo, buonasera per favore. In direzione d'arrivo? Gianni, siediti. Nel senso che si stanno abbassando i fari. Così, in 30 secondi. Sì, a me basta poco. Ma magari se si fa qualche battuta già mi risveglio bene. Gianni, guarda che domani ti restituisco quei 500 euro. Almeno. Ti sei svegliato? Meno fosse vero. Cavagava, Luca, avanti. Ciao per qua. Mi sto facendo un po' di... ecco. Condividendo un po' di link su Facebook. Sono tanti, Ragazzi, io sono già un po' di giorni che non c'entro. Via, mamma mia, cara. Dai, riprenditi che io faccio un po' d'ascolto, mi rilascio un po'. Ninna, nanna, Gianni che tu sei ste trumende. C'è una parolaccia comunque, ci metto a parte di orecchie, non mi le cuffie. Qua dice, gelato a cioccolato, dolce un po' salato. Mi spieghi dove cazzo l'hai comprato? Avvedi questo. Sì, se lo svetto, madonna santa. Attenzione però. E tanto, forse abbiamo lavorato oggi per qua. Poco. Con questo freddo. Io poco, ho passato metà mattinata fuori. Cappa. Mi toccava. Eia. La signora, no, più che altro. Per pagare. A noi tocca. ma comunque adesso si sta avvicinando venerdì, così a Romanco ci togliamo fuori queste feste che già mi hanno rotto le scatolucce. Ma voi, troppo a casa, cioè troppe ferie, io sono abituato a muovermi, cioè io a casa, voi, mamma mia. Tu eri abituato a viaggiare adesso. E no, invece così, a casa, da una sedia all'altra, esco, mi faccio un giro, poi rientro, mamma mia, cara casa. Una belva in gabbia. Ehi, dai, che almeno ci stai per un po'. Comunque ciao, Lucariello, eh. Ah, voglio ancora, ti ho salutato, Cava. Cava, cava. Lo sai che stamattina ho avuto dei guai, no? Per chiamartemi, Giuseppe. Oh, veramente. Ehi, dai, allora sono arrivato a San Camillo e non mi riparto la tua macchina. Sì. E perché non l'hai chiamato? Tanto ero a casa. Stavo per chiamarti, poi ho telefonato a Torino e mi ha detto di staccare la batteria, c'è una 20 mezz'ora e si è riattivato il cuore. E se di nuovo te l'ha fatta? No, ma adesso lo faccio togliere. E se comincia a darti noie, e metti caso che era successo in galleria quella storia lì? Quello lì magari si è inceppato e non si leggeva più il codice della chiave. Vai adesso, la tua mese se ce la faccio, perché ormai devo studiare i giorni, ti posso fermarla, mi faccio togliere la centralina, la porto lì da corno, da servizio, e me la decodifico. È meglio perché... Cavolo, rimanere per strada, guarda, per quella stupida panica e da matta. Poi ci avevo anche lì in macchina che avevo appena finito e le volte l'avevo fatto aspettare lì, ma comunque, vabbè. Era più che altro, poi mi ha detto Torino, diceva, se non parte più, ti mando il carattere a portarla qua. Tu male papà non chiamarmi, perché avevamo fatto il viaggio a Sassari per portare quello che tu sai qui, a QTH, e poi eravamo risaliti per vedere un pochino cosa si poteva fare. Vabbè, ho saltato, aspettato, e poi è ripartita. Sono partito a raso, ho detto, vabbè. Una volta poi decodificato, tanto quella stupida lì serve, anzi serve più che altro a creare guai. Poi ho visto che tu hai anche quell'attrezzo che si mette nei pedali, quindi va più che bene. No, ma non faccio decodificare, ormai mi ha rotto le scatole ogni volta. Ehi, pietà. Ehi, anche un mio amico gli è successa una storia del genere. E lui era sempre tiro, e io gliel'avevo detto. Ed era l'appunto, il penultimo tipo dell'appunto. E gli dava problemi, no? Delle volte andava a mettere in moto e gli rimaneva la cosa, la chiavetta accesa. Delle volte spegneva il quadro, un paio di volte ripartiva. Una volta gli è successo dentro la nave, va a sbarcare e la macchina non è più partita. Ma poi non ho capito il loro metodo a fare, tanto se recupererevo ci riesco lo stesso, e là ne ci riesco. Ma adesso la questione della codificazione, ancora i signori costruttori di macchine non si sono messi in testa che per aggirare la codifica della chiave le macchine le stanno rubando con i carro attrezzi. Infatti, no, dice che usano i manifestando. Guarda, figurati, nell'appunto che avevo, addirittura non mi ricordo manco se ne avevo i codificatore, non avevo antipurto, non gli mettevo mese manco quel coso ai pedali, tanto magari più la vedono così e peggio è. Io te la posteggiavo qui sotto, come te la era. Me lo posso immaginare, cazzo, con tutto il tempo che aveva per potersi fermare con la macchina, cazzo, proprio oggi, cazzo, pari telecomandata la cosa. Vabbè, ormai è andata, se io cazzo gli sono morto ero niente, mamma mia, che cazzo non mi è venuto. Beh, me lo posso immaginare, me lo posso solo immaginare. Poi stasera perché ha fatto la brava? Bene, quella là, tanto eri da un momento all'altro lì a vederla che ti stava superando per là. E infatti ho detto prima che mi sorpassi. Cavagava. Te l'immagini in città che andavi a messarmi da un bullone era. Due bulloni che stavano cedendo, Era spaccata. Proprio niente sono stato io. Hai fatto bene, Anto. Hai fatto bene. Vuoi vedere che la fanno anche più bella, Pierpaolo, le patane nuove. Bene sono queste, bene. Guarda, io ho sempre detto che la macchina è bella, originale, così com'è. Però i cerchi e le gomme, la macchina la fanno bella. Adesso sono i suoi originali, quando ci vuole ci vuole. E in Sardegna dicono, quando bighere e bighere. Boia. Sono un po' stanco infatti oggi, molto stanco. Oh ya, ma chi lo dici? Io sono stanco di non far niente invece. Quella cosa ci vogliamo mai. Oh, ma ci stai interessando, ci stai pensando perché? Sto pensando sì. Invece proprio per niente, guarda, se non è che ho ricevuto l'email stamattina che hanno detto che l'hanno spedito, se no manco ci stavo pensando. Ma già così ti hanno detto spedito? Un 7 giorni, no, ci metterà. Forse anche meno, forse un 5 giorni, ma io sono convinto che ai primi della prossima settimana sicuramente ce l'abbiamo a casa. Perché poi dobbiamo vedere anche con la storia là il funzionamento, cioè che forse vanno, magari attacco casse e si sente il botto. No, quindi adesso con quello ne ho tre, quindi due me li devo archiviare. Girare la testa a trovarlo. Mamma mia la schiena. Ah, tu dove sei affatto? Ma cioè dici a me adesso. No, che... Ebbene, Anto, adesso mi farà per finire, c'era il film, me lo dovevo guardare, invece poi, cazzo, mi è uscito di testa. C'è il continuo del film di ieri. Film era? Ieri mi sono guardato La Mummia, oggi c'è La Mummia 2, Il Ritorno. Un bettello, l'avevo visto, però ogni tanto fa piacere dei film che piacciono rivederli. Beh, fa piacere, sì, pure a me fa piacere un bel po'. No, Unici Mummie non l'abbiamo mai baitato io. No, è bello, bello, capo un filmone, certi effetti speciali. Tu l'hai visto lui? Quando? Ieri. Ma non hai guardato più Giuseppe? Quando vado sul computer. Ah, quello è terribile, cazzo, il computer, guarda, mamma mia. Delle volte anche a me quando mi prende, cazzo, poi ti passa il tempo e manco te ne accorgi. Cava. Giuseppe. Ehi, Anto. Sono tu, sono Pierpaolo. Ah, ehi, dimmi Pierpa. Hai sentito, la voce è la mia, io sono in persona, il guaracchino c'è da Antonio. C'è un problema qua, c'è il computer di Antonio, guarda, lo controllo. Ce la riascoltiamo domani, anzi ci sentiamo anche per telefono. Ciao a tutti, ciao Luca, ciao Gianni, mi pare che è una dannana. Leoncino pure c'è, no? Ciao a tutti, compra. Ehi, K, dai, ciao Pierpa, ciao, ci sentiamo, tanto adesso sto chiudendo anch'io, che vado a terminarmi di farmi con la commissione, e niente, ce la sentiamo domani con tutta calma, ciao Pierpa. Da salutato. K, sto stracco stasera un po', E caldo, e ci mancherebbe altro dopo una giornata di lavoro che uno non sia stanco. Oggi è pieno. E poi mi. Adesso come passa il freddo, Anto, viene la primavera, poi viene l'istio. A te piace la primavera? A me, guarda, fosse stato 12 mesi di caldo, io sarei stato l'uomo più felice di questo mondo. No, non amo io molto il caldo. Io sì, sempre meglio del freddo. A me non piace stare tutto imbacuccato. A me un paio di calzoncini, una maglietta, un paio di ciabatte e su che si arrulla. Giappa, no, a me piace... Se ti ripeto, lavoro meglio io col freddo. No, io invece col freddo lavoro male, ma non riesco a fare niente. Vabbè, sono due mansioni diverse. Ma potete dire che andate più va piano, soprattutto nel zio, ti sciume io prima a te, se cambi idea. Lo so, ma anche col lavoro che facciamo noi, quando fa freddo, che le strade cominciano a ghiacciare, lavori male. L'estate, quando c'è quel sole che ti spacca in due, lavori male, quindi bisogna scegliere che cosa, qual è la cosa migliore. Secondo me io ho fatto la mia scelta e col caldo ci navigo, che è una meraviglia. Gappa, vabbè, ognuno il suo. Positivo è carta di erosmetro. Cava. Senti come rulla questo paragono. Già ne rulla già. Va bene. Bisogna fare saldare anche questo un pochettino. Cava. Oh, preferisco di più. Salto. Come modulazione è molto bella, 48. Sì, io vabbè. Poi questi qua sono quelli normali. vediamo quando arriva il mostriciaccio se riusciamo a risistemarlo, se no lo mettiamo in soffitta. No, adesso si riesce a metterlo a posto. Qua secondo me si può rimettere a posto alla grande. Vaga. Se poi non si può rimettere a posto, il figlio capo che passa in auto con un camion. No, non sono appassionato con un camion, per cui ci può sempre aggiustare. Andiamo, adesso quando lo rispediscono, vediamo un pochino cosa si può fare. Cavolo. Ho pulito il tuo un cambio a Reginocchi. Va. No, ma un cambio no. La buio l'ho fatto sistemare. Però soltare un cambio no, assolutamente. Esistivo K di Roger, Antonio Pomodoro. K. Non sono radio da mettersi sul camion. Sì, magari da tenere in esposizione qua. Però quando ti prendono, quando sono così ti prendono e sono spazi inutilmente. Ma poi non è che radio in esposizione, che c'è radio, bisogna far aggiustare da qualcuno che se ne intenda. Come minimo, prima di buttare la spugna, vediamo di provare la spugna. Vediamo se lo sistemare, a qualcuno qua andate, basta cambiare un frequentimetro, non è che ci voglia chissà che cosa. Uno che è un pochettino esperto ci riesce a aggiustarlo. Però aggiustando si può bisogna anche trovare del frutto. Ma va quello poi già si cerca. Ma speriamo bene. Perché io ci ho provato spesso a cercarlo in internet, però non in presa. Quando tu chiedi il frequentimetro, tirati la tua parte. Già qualcuno mi può chiedere cosa vuoi dica. Se non vuoi salire su a Milano, dagli amici nostri, gli infilo la mano in gola e glielo tiro il frequentimetro e se ne alla lingua qua. Se non si capi la parara, capi da 4 mesi, capi, non mi rubo solo all'aria. A Milano ci carichiamo la macchina, ci impartiamo. Cosa vuoi tu? Vai e viaggia. E viaggia adesso. Infine. Beh, ha fatto un po' di interesse, mi sa che ha fatto. Ma, che avrei fatto, mi ha venduto tutti, se avete andato a Milano, ma io, non ho questo apparato. Sì, aspetta che te lo do. Non prenderlo, impacchetta tutto il video, vabbè. Fate saluti, arrivederci, si tenga quello che gli ho dato, e sinnate. Se non vuoi fare questa, se non vuoi fare un muro alla qui in Sardegna. Allora, l'avevo detto, e ricordati di quello che ti ho mandato, che non hai cavato bene. E chi è lei? E chi è? Chi su chi ti ha mandato a fare a chi? No, vai, buffa. Se fa vino, cos'è che chiama la polizia? Ma lo verrai da un po' ancora a fare a mamma, ti piace di vedere a sé. Via, soltanto, guarda, che ci vuole, solo per salire un sacco di soldi. Lo so, vicino a te, ti piaciuti, se fosse stato un negozio qui in Sardegna a quest'ora, a quest'ora era fatto già, fatto, dimenticato. Gabbe di cazzo sono le notte. Poi Ian lascia perdere le cazze che siamo. Guarda, è la buona ragione di andare a fare un po'. attacca, perché non abbiamo un'assistenza, non abbiamo un centro dove puoi andare ad acquistare tranquillamente quello che ti occorre. Tanto che sono a cose di tanto di internet, a cose di internet. Siamo tutti in paura, ma tutti in paura di chissà che cosa. Cioè, con internet che c'è, per chi sta a posto di te, per tutta canta che sta a Marazzucci. Cazzo, buone, che già prendi. Ciao.